Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, benvenuti a un nuovo appuntamento con Strade e Motori, la trasmissione che ogni settimana prova a farvi conoscere meglio temi e protagonisti del mondo della mobilità. In questo numero torniamo a fare il punto su due argomenti caldissimi di questo periodo: l'universo Fiat visto dal lato prodotto e poi l'altro grande settore in espansione, quello dell'elettrico, alla vigilia della rivoluzione che forse arriverà presto. Ci sarà spazio anche per parlare un po' più a freddo, in maniera ponderata, delle novità, delle modifiche al codice della strada e delle ricadute sulla sicurezza stradale, ma siccome Strade e Motori non va solo su quattro ruote ma anche su due ruote, iniziamo parlando di moto. Sarà l'aria di primavera che finalmente sembra arrivata, sarà la voglia di viaggiare, ma oggi iniziamo il nostro appuntamento sfoderando un po' il lato edonistico, ludico di Strade e Motori, dove ogni tanto ci piace raccontare di come la mobilità non significhi soltanto spostamenti di lavoro, ma anche per diletto. Così prendiamo spunto da una bella iniziativa del mensile Due Ruote, che sta presentando una serie di itinerari turistici per gli appassionati di moto, per i centauri. Allora abbiamo in collegamento con noi il direttore di Due Ruote, Luigi Bianchi. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, direttore, il vostro numero di giugno presenta 8 splendide pagine dedicate ad un itinerario in una delle regioni, in una zona più belle e forse meno conosciute, e verrebbe da dire per fortuna, del nostro paese, ovvero il Monferrato. Siamo in provincia di Alessandria e cosa avete scoperto viaggiando per queste strade? Abbiamo scoperto che, come spesso accade in Italia, se appena si esce dagli itinerari conosciuti, dall'autostrada, eccetera, si possono vedere dei posti bellissimi, si può viaggiare su strade ancora poco trafficate, si possono incontrare delle situazioni che sono veramente inaspettate. In questo caso noi abbiamo preso un po' la scusa di questa iniziativa che si chiama Castelli Aperti e che per tutta l'estate consentirà a chi vuole di visitare una serie di dimore storiche, appunto partendo da Casale Monferrato, andando nella zona di Alessandria, di Asti, per finire poi nelle vicinanze di Torino. Perché è così bella questa zona, soprattutto per i centauri, per gli appassionati di moto, per chi viaggia su due ruote? Perché è una zona ancora poco frequentata, ci sono strade non veloci ma molto belle, abbastanza vuote, no? In cui è ancora un piacere guidare senza bisogno di andare forte, e in più lungo queste strade si incontrano proprio questi castelli, queste situazioni in cui ci sono ancora delle produzioni artigianali, in cui ci sono ancora delle situazioni agricole che si stavano andando un po' perdendo, e quindi si può così riconquistare un po' il gusto anche di quella che era l'Italia di provincia di una volta, con un'Italia molto bella di cui noi parliamo molto spesso nei nostri itinerari. E infatti a fianco al Monferrato parlate anche dell'entroterra savonese e poi proponete un'altra iniziativa molto interessante che addirittura allarga il raggio d'azione, si intitola L'Italia su due ruote e sono 40 nuovi itinerari per i motociclisti. Ecco, vogliamo presentare anche questa interessante iniziativa? Direttore. Questa iniziativa è legata al numero di luglio che abbiamo in preparazione in questi giorni e si collega ad altre produzioni analoghe che abbiamo già fatto gli anni scorsi. Noi abbiamo già pubblicato negli anni passati 100 schede itinerario, tutti gli itinerari italiani, sono delle schede su carta plastificata nel formato che va nella borsa da serbatoio e che presentano proprio realtà tipo quelle del Monferrato di cui abbiamo parlato adesso, poi possono essere, se si vuole, sommate per creare dei viaggi un po' più lunghi. Quest'anno pubblichiamo altri 40 itinerari nuovi. E da tenere presente, sono tutti itinerari davvero realizzati da noi, non sono fatti a tavolino, sono fatti montando in sella e andando a percorrere le strade sul serio, e come novità saranno completati dei file per i navigatori satellitari, per i GPS, in modo tale da semplificare ancora di più la fruizione di queste proposte che facciamo. Infatti lo slogan che leggevo è proprio itinerari da motociclisti per motociclisti, che vuol dire garanzia di qualità e di attenzione. Beh sì, questa è un po' la nostra parola d'ordine. Noi come vocazione nostra cerchiamo sempre di proporre utilizzi della motocicletta che non siano che non siano solo quello sportivo, e tra questi utilizzi sicuramente quello turistico è il più importante e anche quello più gradito. Difatti per noi è una parte di grosso successo del giornale ed è anche un po' una nostra esclusiva, se vogliamo. C'è un servizio molto interessante che riguarda i corsi di guida. Noi ce ne siamo occupati spesso qui a Strade e Motori, dobbiamo dire la verità, soprattutto con attenzione per quanto riguarda i corsi di guida per auto. Ecco, i corsi di guida sicura sono, tra virgolette, sicuri anche per le moto? Lei li consiglia? Consiglio assolutamente, anche perché molta gente sta passando oggi dalle quattro ruote alle due ruote, soprattutto gli scooter, per evidenti motivi di traffico cittadino. però l'utilizzo delle due ruote comporta una, diciamo, una coscienza del mezzo, una conoscenza, una coscienza del mezzo che si guida più alta che sulle auto, perché il mezzo è per sua natura più instabile e quindi, se si vuole, anche pericoloso. E quindi i corsi di guida io li trovo assolutamente consigliabili, ce ne sono molti fatti bene e si imparano molte cose, si impara soprattutto a riconoscere i rischi e ad evitarli, e questo è molto molto importante. Direttore, per concludere, nel suo editoriale del numero di giugno di Due Ruote, lei cita un evento che a metà di giugno ci sarà a Pechino, ovvero il salone della moto della Repubblica Popolare Cinese, un evento che è organizzato dagli italiani. Sembra strano dirlo, ma è così, no? In realtà non è tanto strano, perché gli organizzatori del Salone di Milano, che poi è l'ECMA, in realtà hanno dimostrato di essere i più bravi nel mondo, perché questo è diventato il salone in assoluto più importante d'Europa, ma non solo. E quindi la Repubblica Popolare Cinese, che aveva necessità di iniziare un salone proprio per l'importanza che ha questa industria anche da loro, ha chiesto la collaborazione e l'aiuto degli italiani, e quindi dall'11 al 13 giugno aprirà questo primo salone, che difatti si chiama ECMA Cina, proprio per richiamare questa collaborazione con noi. Ed è un evento importante dove sono attese anche tante aziende italiane, perché è un'occasione da non perdere, quella del mercato cinese. Quella per di le oggi, italiane. Certamente, quella di oggi è una prima edizione, quindi sarà anche un po' un'edizione di rodaggio, però certamente può rappresentare un momento importante per farsi conoscere meglio, no, tra realtà industriale cinese e italiana, perché la Cina può essere sicuramente un'occasione, oltre che una preoccupazione, come è noto, per le questioni che tutti conoscono di delocalizzazione, globalizzazione, eccetera. Certo, un mercato dove immaginiamo nel futuro si venderà magari qualche bicicletta in meno e qualche scooter, qualche moto in più. Poi le aziende italiane sono già presenti in modo massiccio. Piaggio ha stabilimenti in Cina, ce li ha Regina, quella che produce le catene, ce li hanno altri, insomma, per cui molta componentistica viene dalla Cina, per cui è un rapporto molto forte che già esiste e che quindi vale la pena di consolidare e dirigere nel modo giusto, direi. È stato un piacere avere ospite Luigi Bianchi, direttore di Due Ruote, il mensile che potete trovare in edicola. Appuntamento a presto, direttore, grazie ancora, buona domenica. Grazie. E voi, arrivederci. Sta per entrare in vigore in questi giorni tutta quella serie di modifiche del codice della strada di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane. Di sicurezza stradale vogliamo parlare oggi pomeriggio con l'ingegner Filippo Moscarini, presidente dell'AISCAM, Associazione Italiana Sicurezza Circolazione Automezzi e Moto. Buona domenica, presidente, grazie per essere con noi. Buona domenica a lei e agli ascoltatori. Presidente, noi prendiamo spunto da una lettera aperta che avete pubblicato nei giorni scorsi sulla sicurezza. L'avete intitolata Dal dire al fare. Questo perché di sicurezza stradale si è parlato tantissimo negli ultimi anni, ma si è fatto poco dal punto di vista pratico, è così? Beh, purtroppo diciamo che è così. Sicurezza stradale è un qualcosa che torna corsi ricorsi storici, cioè quando accade qualcosa di grave e cose di questo genere tutti ne parlano, però appena le cose si calmano o quantomeno tornano nella routine rimane così nella mente delle persone. Vogliamo ricordare i numeri, presidente, della questione sicurezza stradale in Italia, che sono numeri agghiaccianti, il caso di utilizzare questo aggettivo. Ma sì, perché sono numeri che fanno paura, perché si parla di 5.000 morti all'anno, si parla di 14 persone che muoiono ogni giorno. Non voglio fare paragoni, ma si può paragonare a qualsiasi cosa, a una guerra, a una catastrofe, a cose di questo genere. Si parla di una spesa sociale di 30 miliardi di euro l'anno. Se lo paragoniamo alle famose manovre economiche del governo, non ci sono problemi, basta guardare i numeri. Ecco. Quindi è una grossa emergenza. Infatti noi, fra le varie proposte, abbiamo proposto di creare proprio un ente, chiamiamolo come vogliamo, ma che si occupi costantemente, perennemente di sicurezza stradale dal punto di vista operativo, non solo dal punto di vista legislativo, di leggi, di sanzioni, come si fa normalmente anche nell'ultimo codice della strada, almeno nell'ultima versione che forse potrà essere anche modificata alla Camera, però certo. Si parla di inasprimento di sanzioni, si parla di tutte queste cose, però poi in pratica si fa poco, si fa molto poco. come dire, ci sono troppe teste, no, a pensare, e che riflettono soprattutto al momento dell'emergenza, e invece magari c'è poca programmazione. Voi chiedete il coordinamento, un coordinamento centrale, e fate un esempio importante dall'estero, che è quello della Francia. Perché, Presidente, cosa è accaduto in Francia? Perché in Francia abbiamo visto che gli incidenti si sono ridotti del 50%, quindi qualche motivo ci sarà, qualche ragione ci sarà, evidentemente hanno applicato, perché spesso e volentieri si tratta dell'applicazione delle leggi, perché se si fanno le leggi che poi non possono essere applicate, nel senso controllate, verificate, siamo sempre lì, lo vediamo anche nel nuovo codice, ci sono delle sanzioni, delle cose, e poi se gli organi competenti non possono applicarle, non possono farle pesare sul conducente, sul cittadino, rimangono così, senza alcuna importanza, no? Dal punto di vista scientifico, voi nella vostra lettera aperta sottolineate come non ci sia stata finora, è davvero singolare questo, un'analisi accurata di perché accadono gli incidenti. Sì, è vero questo, perché ormai noi sappiamo che il 90% degli incidenti, questo lo dicono tutti, avviene a causa del conducente. Le cause sono molteplici naturalmente, ma si ribaltano tutte su una cosa: la mancanza di concentrazione alla guida. Ormai l'automobile è diventato, come posso dire, un bene comune, dai ragazzini di 14 anni con le maledette minicar, mi scusi il termine, all'uomo di 80 anni che guida quando non ha più i requisiti necessari per poter guidare. Basta verificare questo. Studiare il motivo di un incidente senza dire ogni volta è la velocità. La velocità può essere una componente negativa, ma non è la causa scatenante di un incidente. Presidente, per concludere, qual è anche il ruolo che gioca l'infrastruttura, ovvero la strada? Sicuramente noi analizziamo quello, vede, tramite i nostri centri, noi lavoriamo anche molto sulle infrastrutture, le faccio un esempio, la segnaletica. Io ho saputo una cosa, e poi le cose si sanno così per caso, che la segnaletica ha una scadenza. Alla scadenza la segnaletica non viene tolta perché costa, ma è un assurdo, perché noi abbiamo dei segnali che possono indurre in errore e quindi di conseguenza provocare degli incidenti. Io in particolare mi occupo, per esempio, di garvedi, di urgenze, eccetera. Vedo sulle strade dei garvedi antichi che non hanno più nessun effetto, aspettiamo l'incidente, dopodiché andremo a sostituire il garvedi. Nelle strade di Roma lo vediamo tutti cosa sono le buche che possono provocare degli incidenti gravissimi, soprattutto con tutte le due ruote che ci sono in circolazione. Quindi è tutto un problema che andrebbe affrontato da un organismo competente, composto di gente operativa e competente, che piano piano, perché non ci vuole né 6 mesi né un anno, ci vogliono anni per arrivare a questa cultura generale della sicurezza stradale. Noi ringraziamo il presidente dell'AISCAM, l'Associazione Italiana Sicurezza Circolazione Automezzi e Moto. Grazie mille, ingegner Moscarini, per la sua analisi, per il suo contributo. Ci risentiamo presto qui a Strade e Motori. Buona domenica. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. Buonasera. Adesso ci ascoltiamo tutti gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Torniamo tra pochissimo per parlare di elettrico. Strade e Motori. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori. Tra poco cercheremo di capire cosa c'è nel futuro di Fiat, ma iniziamo subito parlando della rivoluzione elettrica che riguarderà molto presto l'auto. Il prossimo giovedì 27 di maggio, dalle ore 15 all'Autodromo Nazionale di Monza, ci sarà la prima edizione di Electric Age, un pomeriggio di incontri per fare il punto sullo sviluppo dell'elettrico in Italia oggi. Temi che approfondiamo con Giorgio Beghella Bartoli, direttore tecnico dell'Autodromo Nazionale di Monza e di Aria Nuova. Buona domenica, direttore, ben trovato. Grazie, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ecco, direttore, due sessioni di incontri per quanto riguarda Electric Age. Come sarà strutturata questa giornata che si svolgerà presso il vostro autodromo? Beh, la giornata dunque sarà strutturata in questa maniera. Ci saranno 4 gruppi di lavoro che lavoreranno in contemporanea e che tratteranno di tutte le tematiche che riguardano il muoversi a batteria, come abbiamo detto. I 4 gruppi di lavoro si occuperanno della ricarica, del territorio, dell'azienda, e del veicolo. Saranno guidati da e condotti e coordinati da giornalisti importanti come Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore, da Elisabetta Guidobaldi dell'ANSA, da Eugenio Corsio di Repubblica e da Luca Grandori di Gente Motori Autocar. Alla fine questi i giornalisti coordinatori porteranno all'attenzione del ministro, e quindi qui silenzio si parte, e oltre che del ministro, del presidente, del governatore della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, quelle che sono le conclusioni emerse dai vari gruppi di lavoro che racchiudono tutte le aziende e tutti gli enti che sono interessati allo sviluppo del muoversi in maniera ecocompatibile, soprattutto quindi in maniera con motori elettrici. Volendo riassumerle queste necessità, direttore, in due parole, secondo lei in che direzione dobbiamo andare? Ma dunque ci sono diverse problematiche e sono proprio quelle che dovranno essere approfondite, però è chiaro che una rete distributiva di energia alla quale potersi collegare per poter fare rifornimento mentre si va al supermercato piuttosto che essere in ufficio sicuramente è necessaria. Studiare le tematiche normative, perché poi alla fine possono anche esserci delle normative che invece di facilitare l'uso di questi mezzi magari creano qualche difficoltà, e questo deve essere approfondito e il governo deve esserne cosciente. E poi c'è un'altra parolina magica, direttore, che è incentivi, che sono presenti praticamente in tutta Europa, comunque nei maggiori paesi, e che invece in Italia, a parte qualche situazione locale, sono drammaticamente assenti. Sì, gli incentivi però non vorrei che diventassero una scusa, perché l'incentivo va bene, ma il prodotto deve essere valido di per se stesso e deve sicuramente portare un contributo. La gente deve essere convinta di questo e deve avere un prodotto che commercialmente stia in piedi. Certamente si sta lavorando molto sulle capacità delle batterie. Oggi le tecnologie che si stanno sviluppando anche grazie all'uso dei telefonini e di tutto quel settore che richiede un'indipendenza da una rete energetica fissa, sicuramente porta un contributo anche alla soluzione di problematiche relative al veicolo elettrico. La percorrenza è un fatto basilare, cioè se io posso fare praticamente in una giornata il numero di chilometri posso coprire che servono all'80% delle persone che si muovono e che vanno in ufficio, che vanno ad attività abbastanza fisse, abbiamo risolto gran parte del problema. Perché indubbiamente poter partire di casa, andare in ufficio, tornare a casa e attaccare alla rete elettrica il veicolo per poterlo ricaricare significherebbe spalancare le porte veramente ad una mobilità nuova. Direttore, per concludere, dal punto di vista del suo osservatorio privilegiato, che al di là dell'Autodromo Nazionale, anche quello di Aria Nuova, vede da parte del pubblico, dell'utente, dell'automobilista medio un effettivo interesse nei confronti dell'elettrico, oppure secondo lei ci si spaventerà quando poi si leggeranno le cifre? Perché in questo momento uno dei problemi è anche il prezzo, l'elevatissimo prezzo delle batterie, che poi si ripercuote anche su quello della vettura. Certamente è un cane che si morde la coda, perché l'altissimo prezzo è anche indubbiamente dovuto alla ridottissima produzione. Certo. Oggi si stanno mettendo a punto dei veicoli, ma tutte le case mi sembra che si stiano impegnando fortemente in questo settore, perché effettivamente è un settore che ha le migliori capacità di andare avanti. Quindi io ritengo che la gente debba abituarsi, ma anche per questo Aria Nuova, anche per questo Electric Age, Aria Nuova serve per anche sensibilizzare il pubblico su certe tematiche e per far provare certi veicoli, perché vede, io ho provato un veicolo elettrico l'anno scorso, vi dico che è una macchina, l'unico difetto che ha è che non fa rumore, E allora, per tutti coloro i quali possono essere interessati a questo tipo di approfondimento, rimandiamo l'appuntamento per giovedì prossimo, 27 maggio, dalle 15 all'Autodromo Nazionale di Monza. Chi non riuscirà a partecipare di persona può farlo online collegandosi al sito ilsole24ore.com per avere la diretta di questo intenso pomeriggio di discussione e di approfondimento. Noi ringraziamo il direttore tecnico dell'Autodromo Nazionale di Monza e direttore anche di Aria Nuova, Giorgio Beghella Bartoli, che è stato in collegamento con noi. Buona domenica, direttore, a presto. Buona domenica anche a voi, grazie. A Lingotto sono al lavoro i designer della Fiat Auto, al lavoro sul prodotto, ovviamente, prodotto che è parola magica a cui è legato il futuro dell'azienda di Torino e Detroit. Cosa accadrà da qui al 2014? Marchionne ha provato a spiegarlo qualche settimana fa, noi cerchiamo di capire meglio il tutto grazie al contributo del direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Buona domenica, direttore. Buona domenica a voi. Più di 30 modelli, 34 per la precisione, in 5 anni, ma tu sul tuo blog, su internet, hai, come dire, sottolineato un modello in particolare che sarà centrale per il futuro di Fiat. Quale e perché? Non c'è dubbio, il modello è l'appunto, perché a questo punto mancano 3 anni appunto all'arrivo del nuovo modello. È la macchina più venduta in Italia e una delle più vendute in Europa già dal 1993, anno in cui fu lanciata la prima versione dell'appunto, all'epoca poi voluta dall'ingegner Cantarella, che allora era amministratore delegato della Fiat. E quindi adesso deve nascere una nuova generazione, una generazione completamente nuova di questa macchina estremamente popolare, e quindi io ho chiesto ai navigatori, ai lettori, di dire che tipo di strada dovrebbe prendere il centro stile della Fiat, perché ci sono delle scelte non banali da fare, per esempio se fare una macchina più o meno costosa rispetto all'attuale, più o meno grande, più o meno, diciamo, sportiva come intonazione. E devo dire che le risposte sono state molto interessanti e io spero che i designer della Fiat blog lo leggano come hai fatto tu. E quali sono allora, direttore, i suggerimenti che arrivano dai tuoi lettori per quanto riguarda questa nuova punto? Qual è la tendenza maggiore? Intanto il prezzo è diventato un elemento centrale, nel senso che mentre fino a qualche tempo fa era lecito aggiungere contenuti anche magari non strettamente indispensabili, non era poi un grande problema se la macchina costava 500 o 1000 euro in più, adesso il prezzo viene una componente fondamentale. E poi è un po' finita questa corsa a rendere sempre più grandi le vetture, e quindi si chiede una macchina più compatta, più leggera, e che quindi sia anche molto più sobria poi da gestire, sia come rifornimenti sia come manutenzione. Direttore, al di là dell'appunto, prima e dopo il 2013, quali saranno gli altri modelli su cui il Lingotto punterà per il definitivo rilancio? Ma allora, diciamo che la gamma della Lancia verrà come da programma completamente amalgamata con la gamma della Chrysler, e quindi avremo tutta una serie di modelli che in realtà sono soprattutto di derivazione americana, quindi una grande monovolume Lancia che deriva dal Voyager, avremo anche delle berline che nascono anche dalla Sebring e dalla 300C, e poi avremo un rilancio della gamma Alfa Romeo, anche questa abbastanza improntata sui modelli di derivazione appunto americana. Tra gli altri avremo finalmente la SUV che l'Alfa Romeo attende già dal 2003, quando fu esposta la famosa Camaro al Salone di Ginevra di allora, e cioè una SUV di derivazione della Jeep, quindi del partner americano. E ovviamente avremo tutto un grande sviluppo anche dei modelli Fiat, perché avremo appunto la nuova Punto, la nuova Bravo, insomma avremo tutta una serie di declinazioni, tra cui anche nel 2013 la nuova Topolino, che è un'altra automobile molto attesa. Di converso però, tra tanti arrivi ci saranno anche molti lutti, diciamo così, per usare un termine che spero non sia eccessivo, dolorosi, perché molte macchine invece non avranno più una nuova stagione, finiranno con l'attuale serie, e tra queste posso citare macchine estremamente importanti come per esempio la Croma, l'Alfa Brera, l'Alfa GT, la stessa Fiat Idea, la Lancia Musa, anche la 600, che è un'altra macchina che ormai sta arrivando a fine, ma che è stata una macchina molto importante per molte famiglie italiane, magari anche solo come seconda auto. E quindi è veramente un cambio di prospettiva. Quello che c'è da augurarsi è che le ragioni industriali di queste sinergie con la Chrysler, sicuramente importanti, non finiscano per prevalere quelle che sono le esigenze del cliente, perché appunto ricordiamoci che le fabbriche devono funzionare bene, ma soprattutto devono fare macchine che siano appetibili per gli automobilisti, perché la storia è piena di aziende che appunto, pensando troppo alle proprie esigenze produttive, ha finito per ignorare quelle dei clienti, e non sono aziende che sono finite bene, insomma. E allora grazie al direttore di Quattro Ruote Mauro Tedeschini, buona domenica direttore e ci risentiamo tra 7 giorni. Buona domenica a voi. E siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento con Strade e Motori. Sul nostro sito radio24.it l'archivio della trasmissione con le interviste più interessanti tutte da riascoltare. Vi lascio all'appuntamento con il giornale radio delle 17. Noi ci ritroviamo tra 7 giorni.